giorno un grande esploratore là nell'Equador. Intorno radunò delle tribù, ai negri disse così: voi non state troppo bene qua, molto meglio la città, seguitemi su. Ma il vecchio negro disse allora: oh, bongo, bongo, bongo, stare bene solo gongo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, bengo, molte scusi, ma non vengo, io rimango qui. No bono sgarbe strette, sabonette, dreni da sì. Ma con questa sveglia il collo, star bene qui. Fate qui, io vi mostrerò pari. Seguitemi su. Ma il vecchio negro disse ancora: oh, bongo, bongo, bongo, stare bene solo il gongo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, bengo, molte scusi, ma non vengo, io rimango qui. No bono, vostra rumba, vostra samba, vostro spiru. No buono pasta asciutta, meglio scimmia, fatta ragù. No buono sigarette, la mia testa pare girar. No buono votazione, elezione, tutti imbrogliar. No buono radiogine, signorine, magre così. Molto meglio nel naso, ma stare qui. Rimanere buono.